prestato la baraglia. Lo porto lì a Terra d'Oliva, ci serve per fare quella manifestazione. Ah, ecco. Però, come hai detto tu, Zaka, per capirci, io ho detto che serve per fare dei lavori lì, invece serve a me per fare altre cose. Senta, non è troppo grande quello, non se ne busca uno piccolo. E in casa già uno piccolo. Dobbiamo alimentare un casino di roba, un casino di roba c'è da alimentare. C'è da alimentare tutti i fari che illuminano tutto il piazzale. E ci vuole quello per forza, se non ce la fa. Cosa fai con la diamanturi? Sì. La diamanturi, sì. La diamanturi è CB. Capito? Appacchetta. E una cosa organizzata io con un altro paio, solo che era il 22, invece io c'avevo la vista, quindi l'abbiamo spostata al 7 di luglio. Magari rientro anch'io, se sono in fila, capito? Perché no, te l'ho detto, non c'è problema. Te l'ho detto, andiamoci. Andiamo tranquillamente. Te l'ho detto, vieni con me, andiamo. Mi avvisi se sei libero e ti preparo il pass. Mi apporto a Torres. Non c'è problema. Pagava. Anche perché poi c'è una. Lì dove c'è la. Dove c'era, per meglio dire, la stazione di. D'ascolto, c'è una parabola grande e Marco già ci sono andati, li ho visti lì a Formiglia, a Cala d'Oliva, sono arrivati col camioncino, col pulliccino, lì praticamente nella piazza sopra, nella collinettina c'è una parabola enorme, ma grande, e lì c'era la cosa d'ascolto con il meteo e tutto, capito? C'era collegato con il Porto Torres con la radio costiera e tutto. E lì facciamo tipo una sera per coordinare tutto il giorno questa manifestazione che c'è. Ah, va. Mi sento nel crack, sono riuscito a vedere dei festeggiamenti. Tanto non è già entrati due in moto qua nel piazzale, bibi. Ha detto, ma è di che di Piazza d'Italia, di che? Io ho deciso di andare a studiare, tanto già rimbomba poco qua. Ah, sembra che abbia vinto il campionato del mondo, aveva una qualificazione per la finale degli europei, che pensino a giocare a pallone, no a festeggiare, che ancora non hanno vinto. Infatti si fa la festa quando si vince. Ancora ce la batte la Spagna, che non è poco. Quando battono la Spagna che hanno vinto il campionato europeo, allora possono festeggiare. Ma si mette già a sedere, sono tutti uno buono in batte all'altro, come mettere il bigone, no? E vabbè, c'è entusiasmo, perché siamo entrati in finale, quindi entusiasmo c'è. E poi con la Germania, che non ha mai vinto la Germania. Non ho mai vinto la Germania contro l'Italia, quindi ormai lo sanno che siamo più forti. Adesso il problema è battere la Spagna, comunque si vedrà. Cosa stavo dicendo un'altra cosa, cazzo, non la metto, vabbè, ti volevo dire un'altra cosa, non mi ricordo, vediamo se c'è domenica, se mi ricordo te lo dico. Domenica. Io qua sogno, ascolta sotto. Che fa? Per il 7 luglio è libero, sì. Devo calcolare, quanto ne abbiamo oggi? Oggi è 28. Sì, dovrei essere libero. No. Allora già va bene. Se non mi fanno qualche altra carogna. Vabbè, ci aggiorniamo, non ti preoccupare. Lui è cazzo. Ci aggiorniamo, non proprio. Oh, dicendo di quelle cinghie che stringi il rotto non ne hai? Sono tanto ci cade a capofitto, dove? Di quelle ho capito, no, in questo momento non ne ho più, le ho tutte regalate perché ti serve. Me ne servivano almeno due o tre di quelle lunghe. Devo fare un lavoro, devo legare, siccome quelle sono di nylon, no? No, ma sono quelle. Ma dura, cioè già tira, no? Non c'hanno quel gancio che tirava, quel cricchetto, non ce l'hanno con lui. Quelle lì, che tirano, e tengono anche, non ti preoccupare, se agganci con quella, aspetta che la stai tirando. Dobbiamo fissare, agganciarli praticamente, legarli ai piantoni che ci sono là, per qualificare dei fari. Le ultime che ci avevo le ho regalate, capito? Se ci riesco a procurartene qualche luna. Due o tre vecchie, due o tre, se no bisogna farle dei collari. Bisogna fare dei collari immediatamente, bisogna scendere giù l'autorità, non glieli faccio fare. Dei collari da 2 pollici. Per poter. Perché quelli innocenti sono da 1,5 pollici, non vanno bene. K. Uie. Non ho preso una bustina. Ci sono tutte varie ore. Già, io chiudo, dai, che mezzanotte meno un quarto, domani mi va a stare presto. Già, ci aggiorniamo, dai, ci sentiamo domani. Ciao Domenico. Ciao Claudio, ciao Domenico. E già ne sei già addormentato, dai. Ciao Domenico, già ci sentiamo. Ciao. Ciao Domenico, ciao Claudio, dai. Oh, non mi sono addormentato, sono sveglio. Ehi, non mi volte il prezzo, mi sono accorto a mezzanotte meno un quarto, va. Ci aggiorniamo domani già. Ciao, buonanotte. Buonanotte, ciao. Domenico.